ti ho creduto. Oggi che te ne vai, so giudicarti per quel che sei. Quando ti accorgerai cos'hai perduto, tutto rimpiangerai, ma non potrai tornare indietro. Cos'hai perduto?